Salve amici di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 23 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e la ricetta di oggi è hamburger di trota. Ingredienti per 4 persone: 300 g di polpa di trota al naturale o salmonata, una patata piccola, una mozzarella, pan grattato, origano, olio, sale. Preparazione: sbucciate la patata e tagliatela a cubetti e lessatela in acqua salata. Mettete la polpa di trota in un mixer dopo avergli torto le lische. Unite anche la mozzarella tagliata a cubetti e un gran cucchiaio di pan grattato, un pizzico di sale e uno di origano e i dadini di patata lessa. Ridurre tutto in purea. Togliete con le mani una polpetta di composto e date la forma di hamburger. Cuocere in olio caldo. Buon appetito! Il vino consigliato di oggi è Loco Bianco della Toscana, servito fresco. Questa era la puntata numero 23 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima.